che era un fatto tragico che ha distrutto questa vita mia. Ero diventato quasi tisico, non mangiavo e ci bevevo su. Io che ci tenevo tanto al fisico, nei miei panni non ci stavo più. Shabadam dam bidam dam, obla di obla dam. Shabadam dam bide, she love you, yeah yeah yeah. Mi portarono da uno psicologo che ha lo studio sotto casa mia. Mi ricordo disse un fatto analogo, me lo appunto per la biografia. Antidepressivi e stati epatici, e col sesso non andava più. Ho tentato con filmetti erotici, ma ogni volta ricadevo giù. Shabadanda bidanda, obla di obla da. Shabadanda bide, she love you, yeah, yeah, yeah. Per me che non sono un tipo pratico e che viaggia con la fantasia, mi affidai un maestro indiano mitico e nel cosmo sono volato via. Infermiere ancora che ci ridono quando mi portarono lassù. È una clinica speciale, mi dissero, villa Sacro Cuore di Gesù. Shabadanda bidanda, obla di obla da. Shabadanda bide, she love you, yeah, yeah, yeah. Sono uscito che fanno giovedì, con la testa che girava un po', con le gambe molli e gli occhi lucidi, e mi ritrovai dentro il metro. Ci ho trovato l'esperienza erotica, quella che ti fa gridare sì, era bella, tanta pneumatica, solo che non era donna lì. Ora passo il tempo a far l'amore, ho un'impugnatura eccezionale, e se fuori un altro giorno muore, non ci piango e non ci resto male. Così passo il tempo a far canzoni, jazz e musica tradizionale, mentre fuori un altro giorno muore, non ci piango e non ci resto male. Mentre dentro me qualcosa muore, ho il sospetto di essere normale. Mentre dentro me qualcosa muore, ho il sospetto di essere normale. Shabadanda bidanda, obla di obla da. Shabadanda bide, she love you, yeah, yeah. Shabadanda bidanda, obla di obla da. Shabadanda bide, she love you, yeah, yeah, yeah. Shabadanda bidanda, obla di obla da. Shabadanda bide, she love you, yeah, yeah, yeah.